Eccoci qua, Radio Wombat, passaggio a nord-ovest, seconda parte dell'intervista sulla rete di centraline di monitoraggio ambientale che aria tira. Ecco, ritornando alla centralina e ritornando alla possibilità di adottarla, ecco, non è grande, ecco, è piccolina, insomma. No, tutte le volte si fa vedere, un po' stupisce, perché è uno scatolotto di 20 centimetri. Sì, 30 per 20. È veramente uno scatolotto di ridotte dimensioni, perché alla fine la tecnologia, come ben sapete, a cominciare dagli smartphone, no? Io mi ricordo benissimo quando, per ragioni personali, dovetti fare una misurazione di inquinamento acustico a casa mia. Vennero con un'attrezzatura incredibile, perché c'aveva anche il valore legale. Poi alla fine il tecnico mi disse: guardi, in realtà io questa cosa l'avrei potuta fare dal mio smartphone con un'affidabilità equivalente, solo che con lo smartphone non lo posso fare attaccandoci un microfonino esterno, perché non ha valore legale. Però ormai la tecnologia è diventata così performante, e voi che avete gli smartphone in mano ve ne rendete conto, penso, quotidianamente, come tutti noi, e che ormai l'elettronica, l'informatica e quant'altro, né bene e né male, ci mettono in condizione di avere delle analisi dati sorprendenti, per cui con relativamente pochi soldi e quindi alla fine con anche relativamente ingombro di spazio, abbiamo delle soluzioni tecnologiche digitali che ci permettano di poter fare delle operazioni del genere. Ecco, l'importante appunto è l'utilizzo di questa tecnologia, e appunto rispetto a questo vorrei tornare un attimo al discorso precedente, cioè che le istituzioni sotto certi aspetti inseguono quelli che sono i progetti costruiti dal basso, auto-organizzati, diciamo autofinanziati. Ecco, rispetto a questo, quando parlavi appunto di progetti istituzionali, comunque sia rimangono progetti chiusi, cioè sia da un punto di vista del software, sia dal punto di vista della possibilità di monitorarli in tempo reale. Per esempio questo progetto, quello di cui si parlava, che raccoglie dati una settimana, non è che è immediatamente consultabile, come per esempio quello appunto di Che Aria Tira. Non è immediatamente consultabile, neanche facilmente consultabile. Quando comprai comprai un giornale locale che riportava i primi rilevamenti di questo progetto di cui parlavo prima, che fanno il rilevamento settimanale tramite la pestatura delle polveri, io, che pure mi occupo dell'argomento, non che sia uno scienziato per carità, però mi sono interessato come cittadino all'argomento, ho avuto veramente delle grosse difficoltà a consultare e capire quello che veniva stampato su questa doppia pagina di giornale dei rilevamenti effettuati. Non ci si capiva nulla, mentre invece, secondo noi, ed è anche la scelta, diciamo, un po' della comunicazione digitale sul web che abbiamo intrapreso, il cittadino deve essere consapevole immediatamente di come la situazione. Problemi di daltonismo a parte, ma ovviamente ci sono delle tabelle consultabili anche per chi ha problemi di daltonismo, però a colpo d'occhio io vedo la mappa, se le centraline sono tutte nere è giornataccia, se le centraline sono tutte verdi, fortunatamente una delle rare condizioni in cui l'aria è migliore, non salubre ma migliore, e bisogna che sia chiara. Ecco, ora c'è una centralina, è passata da nera al rosso, è passata ora fortunatamente, probabilmente tira più vento, chissà che, meglio. Però voglio dire, deve essere una cosa assolutamente, assolutamente visibile e comprensibile, se no si fa delle cose fini a se stessi, autoreferenziali, insomma. Ecco, prima dicevi che c'è una richiesta anche da luoghi fuori diciamo della piana fiorentina. Al di là di quali sono, magari li puoi anche dire, ma probabilmente sono anche luoghi in cui c'è stata delle iniziative contro l'inquinamento e quindi una maggiore coscienza. Ecco. E questo anche per dire che non è che sono dati fini a se stessi, ma servono anche per avere più consapevolezza e quindi più capacità, diciamo, da più forza all'iniziativa. Ecco. Sì, è proprio così. In Toscana ci arrivano richieste, Pisa, Lucca, dove ci sono delle emergenze ambientali, inquinamento atmosferico, ma la maggior parte delle richieste, da dove ci arriveranno? Da uno dei posti in cui l'Organizzazione Mondiale di Sanità ha detto che è uno dei più inquinati al mondo insieme alla Cina, e che è la pianura padana. La pianura padana è uno dei posti più inquinati al mondo insieme alla Cina da un punto di vista inquinamento atmosferico. E lì ci stanno arrivando un sacco di richieste. Se ci si avesse la possibilità, ma non l'abbiamo, ahimè, perché siamo tutti già coinvolti nei nostri lavori, insomma, dipendenti o professionali, ci sarebbe addirittura dell'opportunità di mettere in piedi un'attività che potrebbe essere anche lavorativa, volendo, perché ci sarà una quantità di richieste enormi. Allora, che cosa si sta ragionando ora come ora? Perché viceversa, la nostra è un'iniziativa di volontariato e no profit e non lavorativa professionale. E a queste situazioni che ci richiedano le centraline, noi proponiamo questo. Si viene lì da voi una giornata, vi si fa vedere come costruire una centralina e come poi diffondere i dati online. Poi però necessariamente dovete fare da voi, perché noi a malapena riusciamo a gestire la questione della Questo è Piana un Fiorentina. altro aspetto, ecco, l'autocostruzione, abbiamo parlato di software, open software, quindi software aperto, software libero e autocostruzione. Questo perché appunto ci sia la capacità da parte di chiunque, ecco, sia di costruirsele, quindi di utilizzarle e di avere il software per poter utilizzare al meglio i dati. Come funziona da questo punto di vista? Sì, il concetto di autonomia tecnologica in questo caso, di non delega, per cui chiunque può essere in grado di replicare questo nostro progetto ogni dove. Ovviamente ci vuole tanta buona volontà, vi assicuro, però, stante il codice aperto a livello software, stante la tecnologia che è reperibile da chiunque, quindi si può considerare open source anche l'aspetto hardware, stante alcune spiegazioni che possiamo dare anche individualmente alle associazioni che poi vogliono replicare un monitoraggio del genere, noi siamo in grado, bene o male, in una giornata, e poi coordinandosi ovviamente via mail e quant'altro, di poter consentire a chiunque di replicare un progetto del genere. Poi chiaramente il lavoro ce n'è tanto, ma non per carità, per dire quanto si lavora e quanto ci sarà da fare. Però considerate, individuare componenti tecnologici, ordinarli, arrivano, vanno montati, vanno tarati, va trovato posti che accolgano le centraline, vanno montate, il tutto va messo in connessione con il sito web in maniera tale che dia i dati in tempo reale e poi quindi siano conservati per analisi a posteriori, per cui non è uno scherzo. Però politicamente abbiamo voluto che tutto questo modello sia open source e quindi in autonomia e quindi replicabile da chiunque. Ecco, e se uno vuole aggiungere una centralina, immediatamente, diciamo, compare nella mappa, ecco. Sì, settimana scorsa l'ho portata insieme a mio figliolo da un amico che sapevo affidabile, stava a Rifredi. Fra l'altro questa persona è molto disinvolta tecnologicamente, ancora più di me, quindi, però la procedura è assolutamente semplice, perché ovviamente si attacca alla centralina, poi si deve dare i parametri della connessione Wi-Fi al quale si attacca. Una volta che si è dato parametri alla connessione locale, si stacca e si riattacca la centralina, quindi si resetta. A quel punto il tutto finisce in piena in piena autonomia, va dato anche l'indirizzo ovviamente al quale trasmettere i dati, però a quel punto con un paio di settaggi, una cosa veramente semplice, e 5 minuti di installazione, se c'è la rete elettrica e c'è la connessione wifi, la centralina è online immediatamente. Mezz'ora in tutto, insomma. Ma no, meno, davvero, Bene. meno. Sì. Ci sentiamo un altro pezzo musicale, sono sempre le Emerson, Lake e Palmer. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. Lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Eccoci qua, sempre Passaggio a Nord-Ovest, ricordiamo, la potete ascoltare il lunedì alle 13, scusate, alle 14.30 e poi successivamente dal martedì al venerdì sempre alle 14.30. Ricordiamo anche per chi non la potesse ascoltare in quell'orario lì, potete riascoltarla tramite podcast oppure scaricare il podcast e riascoltarlo successivamente andando nella sezione podcast di Radio Wombat, che è appunto sul sito wombat.noblogs.org. La sezione podcast è nel menu in alto, il primo a sinistra, si apre un menu a tendina e c'è l'elenco in ordine alfabetico di tutte le trasmissioni di Radio Wombat e quindi tutti i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, in questo caso i passaggi a Nord-Ovest. E ritorniamo appunto all'argomento dell'intervista e ecco, la facilità, ci sono stati anche dei momenti, diciamo, di laboratorio proprio per autocostruire queste centraline. Sì, ci sono anche dei momenti, fra virgolette, gioiosi o divertenti, non è che è tutto rompimento di scatole, nel senso, quando ci sa poi la necessità di avere più centraline e vanno montate, di solito, come si è fatto fino adesso, si lancia nel nostro giro, ma anche pubblicamente, un appello a trovarsi ai Fab Lab di Firenze Rifredi, dove ci hanno l'attrezzatura e ci ospitano sempre, ci danno mano. E arrivano, chi arriva? Persone normali, mamme, bambini, ragazzini che anche non hanno Abitanti del conoscenza, quartiere, insomma, abitanti in quartiere, soprattutto. come sì, interessati all'inquinamento, interessati al progetto e che non hanno particolari conoscenze tecnologiche. Ovviamente ci vuole il mitico Salvatore, il nostro ingegnere che ci segue da vicino e altri che hanno ben Dei consapevolezza di saperi, quali ecco, sono i che poi saperi. magari durante questi laboratori, insomma, vengono anche trasmessi, anche saperi, diciamo, tecnologici, ecco, vengono Sì, anche trasmessi. se tecnologie, poi appunto vengono trasmessi, mi dici bene, no? Per dire, il Raspberry, si parla sempre di questo Raspberry Arduino, no? Che è questa componente tecnologica. Ecco, magari il ragazzino di 15 anni o anche i babbo di 40 hanno sempre sentito Anche dire di di questo 70. Raspberry, il fatto di prenderlo in mano, posizionarlo sulla scheda di plastica, fissarlo sulla colla e poi collegarlo all'altra componentista elettronica, prendere il tubo di plastica, di gomma, tagliarlo all'altezza giusta, che è quello che poi ci deve passare l'aria. Tutti i passaggi che poi alla fine sono quasi divertenti, è una sorta di gioco a Lego, dove però nell'arco di un'oretta e mezzo, diciamo, un'oretta e mezzo o anche 2 ore, a seconda di chi abbiamo coinvolto nel montaggio della centralina, alla fine si riesce ad avere la centralina montata. Se però ci si organizza, come si è fatto quasi sempre, in catena di montaggio, ovvero uno fa una cosa, quella accanto un'altra, alla fine dell'1 ora e mezzo, 2 ore, alla fine invece una centralina ce ne abbiamo 6 o 7, il che ci consente appunto attualmente di avere quelle che abbiamo online, perché prima vanno messe online, poi tarate e via dicendo, però ora siamo, diciamo, più o meno alla cifra di avere una ventina di centraline, per lo più concentrate nella piana fiorentina fra Prato e Firenze, online, e quindi ci consente di avere questa, diciamo, batteria di fuoco, per cui se ne servano 6 o 7 nell'arco di una settimana, siamo in grado di fornirle volendo. Ecco, ritorniamo un attimo all'inizio. La prima centralina è stata installata? La prima centralina è stata installata. Andiamo a rivedere la timeline, però direi un paio d'anni fa, la prima proprio a livello di collaudo e test. No, meno, perché poi si parla di 2016. E si è sviluppato tutto nell'ultimo anno, si è sviluppato tutto in un anno. Abbiamo avuto un'accelerazione tutta in un anno. All'inizio ne abbiamo montate 3 o 4, poi abbiamo dovuto tararle, ovvero affiancarle al progetto di PM25 Firenze per vedere che l'andamento fosse preciso. Anzi, le prime montate sono state poi scartate perché si vedeva che i sensori non erano in sintonia con quelle che ci potevano fornire come riferimento il progetto PM25. Poi siamo andati nella scelta di altri sensori e poi alla fine, una volta che abbiamo individuato quelli affidabili, ne abbiamo montate 3 o 4 sul territorio, abbiamo controllato che non avessero problemi anche con le condizioni atmosferiche, se piovesse, l'umidità, il freddo o quant'altro, e poi quindi abbiamo potuto dare un'accelerata al progetto. Visto che funzionavano, ne abbiamo potute installare un bel po' sul territorio. Ecco, e questi dati da circa un anno a questa parte cosa ci dicono? I dati ci dicono che la piana è molto, molto, molto, molto sollecitata dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, per cui noi continuiamo a essere estremamente preoccupati dal raddoppio dell'aeroporto, dal raddoppio dell'autostrada, dalla ventilata costruzione dell'inceneritore, e quindi si vorrebbe che questa iniziativa avesse anche la funzione di campanello d'allarme. Per dire, rispetto all'aeroporto, no? Che ora i media, i giornali dicono sì, si fa all'aeroporto, in realtà i requisiti esposti per l'installazione dell'aeroporto, sempre che poi li rispettino, ovviamente, i requisiti richiesti sono molto rigidi. Fra i requisiti richiesti è stata pubblicata l'esigenza di montare, di installare nel territorio delle centraline che monitorino l'inquinamento atmosferico attuale, quello che stiamo facendo noi praticamente. Una volta che l'aeroporto eventualmente entri a regime, monitorano l'impatto dell'inquinamento atmosferico dell'aeroporto, e nei requisiti pubblicati dal progetto ufficiale dell'aeroporto c'è scritto che se i rilevamenti dell'inquinamento atmosferico superano delle soglie, addirittura è previsto che le aeree rimangano a terra. Per cui il lavoro che stiamo facendo attualmente oggi ha un senso anche secondo la visione istituzionale della gestione della piana. Praticamente già con quello che si rileva ora dovrebbero rimanere a terra alcuni aerei, insomma. Per quelli che sono i segnali, la situazione non è assolutamente incoraggiante. Se poi uno pensa che l'aeroporto raddoppia nei termini in cui è stato prospettato, per cui ogni 6 minuti c'è un atterraggio e una partenza, e sicuramente le cose non vanno a migliorare. Poi ce lo diranno ovviamente i dati, anche se si spera che tutta questa energia che vogliano riversare violentemente sui nord-ovest, che poi c'è anche lo spostamento di mercato ortofrutticolo e poi la costruzione dello stadio nuovo. Poi queste cose si concatenano in maniera a volte diabolica, per cui dov'è che viene spostato il mercato ortofrutticolo? Ora come ora, il mercato ortofrutticolo è previsto che sia spostato nell'area di ricaduta delle polveri dell'ipotizzato inceneritore. Per cui se tutto va come vogliono che vada, costruiscano l'inceneritore, che sanno già dove vanno a cascare le polveri, perché si sa benissimo, e dove vanno a cascare le polveri? Vanno a cascare dove vogliono spostare il mercato ortofrutticolo. Allora bisogna Quindi essere grulli roba che mangiamo, insomma, sì, ecco. la roba. Poi, infatti, anche il mio ortolano davanti a casa, che pure magari sì, insomma, diciamo, la pensa come la pensa, però anche lui professionalmente è imbelvito su questo aspetto, che dice: ma come ci spostano da casca poi le polveri inceneritori? Perché lo sanno gli addetti ai lavori, chi lavora all'ortofrutticolo a Novoli, lo sanno che c'è questa ipotesi, e sono imbelviti perché ovviamente, a parte il fatto che le novità non fanno mai piacere, poi i problemi dello spostamento e tutto quanto, però il problema è che insomma loro poi vendono una cosa e se qualcuno ci mette il ditino o l'occhio sopra, sa che è proprio ogni punto in cui ricade l'inquinamento dell'inceneritore. Poi l'inceneritore che è previsto come modello preso in considerazione assolutamente non il modello più tecnologico, ma quello più vecchio. Cioè, se uno va a vedere poi come sono sviluppate queste cose, sono previste nella peggior maniera possibile. roba letteralmente da grulli, insomma, anche su un piano del buon senso, lasciando fare la politica o le sensibilità ambientali uno possa avere, proprio stando su un piano di buon senso c'è da allarmarsi sicuramente. Quindi le centraline ci dicono che la piana è già inquinata, che noi non vorremmo vedere il rosso e il nero, e che comunque le previste ulteriori interventi, ecco, andrebbero ulteriormente ad aggravare la situazione da questo punto di vista. E proprio per questo, appunto, le centraline sono strettamente collegate, diciamo, alla lotta che è stata portata avanti e che si sta portando, che stanno ancora portando avanti i cittadini dell'area nord-ovest e non solo, chiaramente, e che quindi diciamo, in questo caso si può dire che il rosso vince sull'esperto, nel senso che il cittadino diciamo, cerca di autotutelarsi e va anche a diciamo, a sopperire a quelle che sono le carenze istituzionali, forse solo per il monitoraggio dell'area, ecco, da questo punto di vista. Sì, assolutamente, noi speriamo che le centraline nostre siano sempre più conosciute, per questo ringraziamo anche Radio Wombat per questa intervista, che il progetto di Area Tira sia sempre più consultato, e quindi questo scenario fantasy in cui si fa lo stadio nuovo, si raddoppia l'aeroporto, si fa l'inceneritore, si sposta il mercato ortofrutticolo sotto l'aeroporto, si raddoppia l'autostrada, tutto questo dove? In una piana che è già aggredita dagli inquinanti atmosferici, ecco, si spera che questa nostra rete di monitoraggio dal basso serva come campanello d'allarme, di informazione, di consapevolezza rispetto ai cittadini che la abitano. Ecco, Enrico è stato abbastanza esplicativo, insomma, no? Sia dal punto di vista della nascita, del continuum del progetto, e anche dal punto di vista di come farlo funzionare. Abbiamo visto che si può diciamo, portarlo avanti, e i cittadini possono portarlo avanti in piena autonomia. Ecco, cosa ci puoi aggiungere a questo punto di vista? Un invito che l'hai già dato, diciamo, la partecipazione, la consultazione, ecco, alcuni particolari, cose da fare, diciamo, per continuare questo progetto qui. Sì, noi speriamo nell'aiuto di tutti, chi ovviamente l'aiuto più semplice è quello di far conoscere il progetto e di consultarlo periodicamente per vedere com'è e prende consapevolezza di com'è l'inquinamento dell'area nella piana fiorentina. Dopodiché speriamo anche in coinvolgimenti più operativi, quindi speriamo che qualcuno voglia adottare la nostra centralina e portarsela a casa, o che magari ci venga a trovare la prossima sessione di montaggio delle centraline, o che magari, se abita anche in altre zone, ci chieda di fargli visita e spiegare come è nato il progetto, per poi replicarlo. Più i percorsi vengono sviluppati in autonomia, e più si pensa noi possano rafforzare politicamente il progetto nel suo complesso. Ecco, ricordiamo, per consultare in tempo reale e anche per vedere lo storico, diciamo, di quello che hanno rilevato le centraline, potete consultare il sito, ma anche per le notizie, ecco, per le prossime iniziative o per i prossimi appuntamenti. www.chiariatira.it. Ringraziamo Enrico e alla prossima puntata di Passaggio al Nord-Ovest. Ricordiamo, lo ripetiamo, la potete ascoltare in streaming da wombat.noblogs.org, così come chiaramente tutte le altre trasmissioni radio Wombat. In questo caso Passaggio al Nord-Ovest potete ascoltare alle 14.30 il lunedì, e poi successivamente dal martedì al venerdì la potete anche riascoltare in streaming o scaricare in podcast, o scaricare il podcast e ascoltarlo successivamente alla sezione podcast, andando sul sito della radio wombat.noblogs.org, e da questi giorni potete ascoltare anche in AM 1359 nell'area fiorentina. Sono i primi giorni di trasmissione, quindi inevitabili problematiche, vi invitiamo tutti a segnalarci come ascoltate, come sentite Radio Wombat in AM, dove la state sentendo. Ciao ciao.